invece già adesso ho provato a prendere una portante, peraltro stavo stringendo con la pinza dove c'è il bocchettone PL femmina dietro, che si stava mollando la vite di tenuta, capito? La vite che lo spinge, e l'ho stretto adesso. Scappa. Oggi c'avevo un problemino mio fisico, quindi non sono uscito, dai, lungo da spiegare. Vediamo se c'è Claudio. Claudio non c'è niente di grave, dai. No, io ero con Alessio che stavo smanettando questo apparecchio. Come sta uscendo? Che ho praticamente ho aumentato tutto, la modulazione. Ma con Antonello Pomponio? Sì, vediamo se c'è qua. Ci sei, Antonello? Okay, gli ho detto che andavo su 10. E ci arriverà adesso. Sì, sembra abbastanza forte, non so se più delle altre volte, ma mi sembra di sì, un po' più amplificata. C'è praticamente adesso, uno era già a tavoletta, la NC, ho aumentato il primo, quello di sinistra, mi sa, non mi ricordo più. Gli ho aumentato il trimmer della modulazione M? ANC ho aumentato praticamente, l'altro era già... L'LC, sì, anch'io, no, in questo no, la verità, in questo no, perché è omologato, questo è completamente omologato, è uguale al 3009 ma è omologato, cioè non è uguale, è un 3009 nato omologato, l'altro invece col display blu è un po' meno omologato, diciamo, ed esce molto più forte di radio, infatti, poi lo sentirai più tardi. Sì, adesso anche il segnale qui ho parlato anche lo smitter, mi sta arrivando 9 più 5, io come ti arrivo? Premi? Anche 9 più 10, sì, guarda. 9 più 15 qua, quanti watt hai? Allora, sono riuscito a tirarne fuori 20 modulati. Aspetta, 9 più 15 sei qua, a portante muta. Oh, immagino fosse il segnale già dell'altro giorno, non lo so, magari eri 9 più 10, adesso sei 9 più 15, non mi ricordo bene. Poi sai, cambiando sempre baracchino, alla fine non ti ricordi i segnali, bisognerebbe usare sempre lo stesso apparato. Comunque sei bello teccio, Ma ricordami un po', tu l'antenna dove ce l'hai? Che antenna avevi? Non mi ricordo. Aspetta che paro un po'. Una boomerang che ormai si dice modificata, guarda che si è rotto lo stelo centrale. Vedi un po' così? Così sei 9,20 pieno, quasi 9,25. Cos'hai, una scarpetta? Con la prima attacca, va, riesco a toglierne. Prima me ne dava 40, adesso pilotandolo con 20 watt me ne dà 130. Eia, aspetta quanto ho aumentato. Mi raccomando, occhio che le boomerang tengono pochi watt. Cosa potrebbe succedere? Che si scioglie l'antenna. Ehi, che si interrompe il cavo. No, non credo, dai. Comunque è meglio non eccedere. Basta che ne dai massimo 100. In AM non dovrebbe succedere niente. Non andare oltre, magari, troppo oltre. No, così va benissimo, dai. Uno e uno e mezzo di stazionale ci sono. Sarebbe 1,5? No, 1,1 e mezzo. 1,15? Cioè anziché 1,1 è 1,15. Sì, 1 più 1 attacca e mezzo, dai. 1,5 è un po' più avanti. Ottimo, non è nemmeno stazionaria, cosa vuoi di più? Antonello Pomponio, ci sei? Ma dov'era prima, in via Merde? No, era il 27. Stavo mangiando un cracker, quello che si fosse momento, a fuoco. A foga, guarda quanto esce bene Franco adesso. Io lo so, sì, stavamo facendo proprio assieme poco fa su 20. Io sto pompando con lo speed GPS a quel telefono. Quella è la scopposta mia, Antonella. Vediamo, sono 17:24. si è all'ascolto. Di solito lui già dalle 4:30 a 5 è già all'ascolto, a meno che oggi non abbia lavorato più tardi. Non lo so. Deia, beh, se non è adesso è dopo, già entrerà, dai. Oggi sono tutto messo. Vabbè. Speriamo che infatti domani così andiamo in campagna a mangiare. Allora, state di accordo per sacco, è tutto di accordo. Ma è influenza, lo sai. No, niente influenza. Allora, un capogiro ha avuto o per la cervicale o come penso io per un disturbo che ho io, è lungo da spiegare, si chiama sindrome da vomito ciclico, solo che oggi ho avuto solo il capogiro, non ho vomitato, quindi sicuramente è venuto in forma ridotta e domani spero di stare bene, dai, che mi ci hanno invitato in campagna ad andare a mangiare. Non sarà la labirintite invece? Io soffro ogni tanto, La? Si chiama labirintite, è un problema alle orecchie, appartenente all'equilibrio. No, è diverso questo. Il capogiro viene quando sei in condizione di sonno, capito? Quando ti assopisci o quando ti addormenti viene il capogiro. Una cosa tipica, anzi posso asserire senza dubbio che questo è quel disturbo lì. Comunque è venuto in forma leggera perché non ho nausea e quindi speriamo domani di poter andare in campagna, dai. Bene. Ok, adesso aspettiamo che rientri Pomponio. Riccardo, perché dite mi sono quelli? Perché anche a me mi dà vertigini e a volte anche la nausea, ma mi ha coricato che in piedi a volte proprio anche a letto. Non c'è una posizione. E praticamente sono dei cristalli all'interno dei tubicini semicircolari che abbiamo le orecchie che si muovono e creano queste vertigini e ti viene la nausea. Sì, quello lo conosco, come hai detto tu, cristalli, pietroline, no, micro sassolini, quello l'avevo sentito, no, non è il mio caso però, questa è una cosa molto più rara. Mi hanno parlato anche a Grigianato, lo sai, CVS in americano, sindrome da vomito ciclico, è una cosa rara, ovviamente me la sono beccata io. Torna, prima veniva, quando ero bambino veniva ogni 3-4 mesi, proprio ciclico, una cosa a orologio, poi ha cominciato a mancare, a venire sporadicamente, ok, meglio quello che altro, comunque dai. Sì, è meglio, dai. Infatti. Sguazzo, nei baracchini si sguazzo, guarda, è una cosa, anzi ho ridotto il numero come ti avevo detto, uno l'ho venduto a Natalino, uno glielo regalato, un omologato 40 canali a Eugenio, un altro l'ho regalato a Pomponio, come si chiama, Fornex 4000 Eco, sempre di quegli anni là, di quegli anni del tuo. Connex 4000 ecco funzionante, mi pare che lo usi tuttora. Insomma, mi sono tolto dalle scatole un po' di roba, dai, perché veramente erano troppi, mi pare fossero, ho preso gli omologati roba di 16 baracchini. E senza contare i portatili, che avevo due portatili, poi uno l'ho fatto fuori e uno buono mi è rimasto. Io quando uscivo per il baracchino nuovo subito comprare baracchino, ma vedo 200 canali, le solite cose. No, io ho un paio, dai, sono un paio, però sempre di questa genere qua, quindi già erano già buoni. E l'altro che baracchino hai, ci può dire? Sì, questo, uno è il Super Galaxy, questo è il Samurai, no, viceversa, questo è il Super Galaxy, l'altro era il Samurai. Super Galaxy ce l'ho presente, ma è piccolare o grande? Tipo, fa ragione. È uguale, sono precisi. È che il Samurai c'ha una banda in più, c'è anche il CV doppio. Ah, uguale praticamente, sì. Va bene. Che poi allo stesso tempo sono uguali a questo Super Joe Pizz 2000, che è lo stesso, identico. Nasceva omologato, forse lasciava omologato anche la frequenzina, 40 canali, 4 watt e 12 watt in onda laterale, poi vabbè, tenere omologato era un bel cazzo, no? E poi nascono omologati per convenzione, in una fesseria, proprio sposti un porticello con le pinzette, però i watt li ho tenuti bassi, 4 watt in AM, FM, 12 watt in banda laterale. È inutile mettere tanti watt, almeno per quanto mi riguarda, dai. E poi lì in eretta non lo posso usare, perché ho prestato il filtro antidisturbo a Natalino, quindi lineare non ne posso mettere ancora. Sì, sì. Qui purtroppo posso togliere il mito, perché nel Samurai non lo puoi togliere. Poi un'altra cosa, il colore, la frequenza metto questo, e Samurai è verde, invece il Galaxy deve andare su un po' più sull'arancione. Ah, arancione, carino. Carino, sono belle verdi, ma anche arancioni. Addirittura c'è un baracchino che ha le cippe viola, un azzurro violetto, più viola che azzurro, dai. E c'è un sacco una sporta ai baracchini nuovi. Anzi, se io fossi entrato, io sono rientrato dopo tanti anni. Dopo 15 anni di assenza sono rientrato nel 2010. Se fossi rientrato pochi anni prima, mi sarei goduto altrettanti belli apparecchi che sono spariti proprio nel 2010 quando sono entrato io. Capito? Tipo il 3009 EFT con frequencimetro, una cosa simile però ancora più elaborata. Addirittura quello fa 12 passe, faceva dai 24 MHz che banda amatoriale fino ai 28 MHz e oltre. Bella bestia, però me la sono fatta sfuggire, era troppo tardi ormai, erano già spariti dal mercato e vabbè, già non mi manca gli apparati. Vende Simagnum 45 cavalli. Beh, mi segnalò che sai, ho aumentato ancora lo smitterli. Sto uscendo con 5 watt. Sì, sul giù prima del 30, là. Lo so, siamo vicini, anche a Marco gli arriverò così. Marco mi arrivava al più del 30. Non ho guardato a te. Però sto uscendo con quelli lì, se no magari se disturbo, se alto, sono cavoli con questo. Comunque con quei filtri ho ottenuto un buon risultato. Ho dovuto aggiungerne un altro, ne ho due, perché quello che mi ha dato Marco non ce la faceva, con un watt non ce la faceva, e allora ho messo quello della ZG, ho aggiunto quello che c'avevo, e sembra non è venuto più nessuno qua, sto uscendo con 5 watt e va benissimo. Ma no, vabbè, perché il microfono è dedicato, sì. No, il suo è... è forte la radio. E la mia ha cambiato, perché oggi abbiamo... con voi abbiamo un po' smanettato, mi ha fatto mettere tutto a manetta. Va benissimo la tua, è amplificata, bello. Dico, ha cambiato dai giorni scorsi. Mi pare di sì. Non lo so, voi lo sentite meglio di me, io non mi sono ascoltato ancora neanche con l'altro apparato, ho ascoltato a Pomponio. E comunque già stai facendo bene, però non c'è problema. No, questo è un microfono da palmo, il suo proprio originale. Mi Marco già lo sa. Sì, praticamente è alimentato dalla radio. E quindi, essendo alimentato, è un po' amplificato. Ma non si sente che sta spingendo, non è un microfono normale, dai. E c'ho il mic gain a metà. Perché... sempre per non disturbarmi, sto facendo basso basso per quello, perché non mi va di disturbare. Ma qua è tutto la manetta, ditemi voi se posso abbassare o se devo abbassare. Ah, la cassa così andava, tu che te lo puoi permettere. Mi sta andando a mezzo cane la gamba. Natali, stavo dicendo a Franco che non posso usare adesso, anche se, se dovesse capitare, no, ti dovrei usare. Non posso usarlo perché c'è il mio filtro finché, vabbè, tanto di ex ormai è finita la stagione, no, non ne devo fare. Lo sai, sempre uno passo, no, non le posso attaccare bene, c'è la, che ti ho prestato quel filtro. Ma perché disturbi col lineare? Allora, potrei, no, nessuno mi ha detto niente, però potrei, e allora, siccome la RMI ti raccomanda vivamente di mettere quel filtro sui loro lineari, io ho seguito il consiglio per renderlo a norme CE, perché se no butta spuri armoniche, capite? Invece col filtro le riduce. Voi ricordate sempre che il filtro anti-guai non è che elimina i disturbi, li riduce sensibilmente, ma non li elimina il tutto. Magari ci sono una serie di filtri professionali per eliminare i disturbi, ma professionali che costano centinaia di euro. Quello è un giocattolino, dai, è poco più di quello ZG. E vai, vai, sta portando il cane mia moglie, così almeno poi si rimane a casa che non sta tanto bene. Basta prendere un tachipirigna. Mi, buonasera. Saluto. Un tachipirigna va bene. Ciao, la cosa è la tachipirigna brasiliana. Sì, è la tachipirigna di uno che diceva quando non si metteva la dentiera, capito? Non diceva, non riusciva a dire tachipirigna, diceva tachipirigna. Ma qualcuno del 20 magari. Esatto, quanto sei veloce tu, fa vedere. Mamma, non cambierai mai tu, cazzo, non cambierai mai. Beh, istigatore di nome di fatto. No, tu sei un capo di bugnetta, non istigatore. Ma chi ha parlato del canale 20? O sto parlando della buon'anima di Mario Mao. Cazzo, mamma mia. Ah, no, ma sai perché? La tapparetta è... tutti quei termini credevo venisse da Rizzi il termine. Va bene, va bene, guarda c'è anche Natalino, vai Natalino, e dovrebbe rientrare Pomponio. Se l'ho anche salutato, lo sa che ci sono io, se la tachipirigna non era rivolta a me. Ma lui non è attento, lui è solo buono a ripetere cose che poi magari si capovolgono, capito? E creano sempre mille problemi. Non conta sino a 10 lui, lui apre la bocca e basta, il pipistrello non c'è da fare. Oh fra, domani c'è la partita alle 6, quindi alle 8, ma vengo io a te o sali tu? Che partita c'è? Milan Juventus, vedi tu, notte in precittà prima dell'otto, Non so, dipende dove andiamo, che zona vuoi andare? Ah, voi dovete decidere, dillo Anna. Non lo so, certo non ce ne siamo a Sassari, non molto lontano, ma comunque è un posto dove non c'è bisogno di prenotare sicuramente. E poi diciamo che sono altre partite? Alle 8:30 poi ci sono gli altri, credo. No, domani gioca la Juve e poi la Roma, credo, alle 8:30. Però quella più importante di domani è Milan-Juventus, perché se la Juve perde col Milan non riesce più a prendere il Napoli, quindi insomma il campionato si fa un po' critico, capito? Con la partita. Non so, vedi tu, dove magari siete già andati, è da un po' che noi non usciamo, dopo andiamo a Porto Torres, se da qualche parte, a Sassari non ci voglio rimanere. Alghero a partire alle 8 da Sassari mi sembra sia troppo tardi. Ma vediamo, dai, parlo anche con Anna dopo. Quindi finisce alle 8, mi hai detto? No, alle 7:30, 8:20 finisce. Capito? Quella lì finisce. Però, senti Anna, magari dille dove vuole andare. Mi sentisci con Anna mia. Oppure mi mandi un messaggio, capito? Non lo so, decidi tu fra. Per me non c'è problema. Okay, dai, lo dico, dai. Ascolta, guarda che abbiamo aumentato un po' la modulazione, come sto uscendo? Benissimo, alla grande. Ma perché non te lo prendi quel Galaxy che ho io, che mi hanno dato a vendere nuovo? A prezzo stracco baratto con l'MB più 5. E questo è un Super Galaxy, quello che sto usando adesso. No, quello è un base a 220, comincia a 20 watt in AM, 25 watt in AM. Oggi ne ha tirato fuori watt, 20, 22 ne ha, modulando, 23. Sì, vabbè, Santiago 9, sì, già va bene. Ok, dai, poi ne parliamo domani. Ok. Fammi sapere, diglielo Anna, poi fammi sapere dove volete andare, non c'è problema, dai, è perché c'è la partita, se no non c'è una bella giornata, ce ne andiamo usciti presto. Avanti, capo di voi, farò. A me, eia, ovviamente non è in chiaro, vero? Assolutamente no, ti ho detto, tutto il campionato della Serie A è solo su Mediaset Premium, compreso anche la Champions League. La Coppa Italia e l'Europa League, qualche partita la danno sul canale 5. Grazie, maledetto. Pazienza. No, te la guardi in streaming, se qualche sito c'è che la dammi. Vediamo se trovo qualcosa. Tipo quella Roja Diretta, non mi ricordo altri nomi. Sì, Roja Diretta lo ricordo. Ce n'era uno in inglese che si rendeva benissimo, cavolo. Solo che la cronaca era in inglese, dai. Va bene. E pazienza, dai. Non sono così sportivo da vedere a tutti i costi, dai. Era giusto per vedere com'è andato. Poponio, sei rientrato? Brava, sono rientrato. Mi viene entrato Claudio e Natalino anche. Ciao a tutti e due, ben scucciti. Ciao Pomponius. Ciao. Kappa, kappa. Vedete al mio po'. Adesso è... Bell'ugaggio, Ci posso cucinare le patatine fritte. Cos'è Bell'ugaggio? Sono lo spinici che ho acceso dopo un po' di tempo, sto comprando con quello. Poco fa ho iniziato corso, con il metodo che ho preso il 440 alla strada, mi ha detto. Dammi il controllo, io l'ho fatto e mi ci va benissimo. No, no, era il mio, questo è il mio. Quello me l'hanno andato a vendere, lui si è proposto, prima degli altri gli ho dato, tutto ieri sera se l'ha preso. Certo esce bene, ci mancherebbe altro. Perfetto, con la radio. C'ha un problemino sull'accensione, ma un problemino che non serve a niente. Con la radio funzionante al 100%, il prezzo era veramente molto interessante. Pazienza, a me non mi serve, io ho mio che è questo, c'ho il 430. E va bene così, mi è passato poco fa il padrone a prendersi i soldi, perché ho trovato ieri sera alle 8:30, stamattina non c'ero, avevo un appuntamento alle 5. Avanti Natali, riprendi. E cazzo, mi hai obbligato uno di chi sia, l'avevi obbligato a Bonaia. Perché? Non potevi usare, secondo te risolvava più di quello che stai usando? Io ero grido io. Vabbè, tieniti quello che hai, intanto usa ne vuoi. Io ce li ho, me li tengo perché cosa, devo stare a cambiare per comprarlo, no? Questo sono tutte e due nuove le mie revisionate, anche quella là era revisionata, però c'è un problema all'accensione, però poi una volta che lo accendi è perfetto, non lo fa più, capito, ma un problemino abbastanza risolvibile. Il prezzo era molto, molto interessante, il padrone ha deciso così. Se dovesse servire, c'ho ancora sempre di questa persona, due microfoni, l'85, l'80, poi c'ho un commutatore d'antenna della Uxin, c'ho baracchini, colte, non colte, col coltello, con la sega, col serracchino, ma c'ho una gascetta di roba da vendì. Scusate, regaligla. Io sono un venditore, ho venduto più di 500 euro di materiale già. Non ho venduto solo 4,40, no? E io ho venduto le roba. Io ho venduto le roba. Beh, capito? Beh, a me mi conoscono e si fidano fra. Se io ti dico prendilo che è buono, la roba l'ho tutta provata, testata, ed è buono. Col 4,40 è un peccato, ma avrei tenuto io, mica come radio di scorta, ma non ci ho posto e poi non me ne va tenuta. Assolutamente, capito? Però, buono, buonissime condizioni, dai. Per il prezzo che l'ha pagato... Se li vale tutti. Avanti Marco. Sì, l'importante è che rimanga contento Calvi, ancora non l'ho sentito perché troppo pomposo, là, e poi a seguire gli altri. Bene. Ascolta, che selettore è d'antenna? Ma che selettore è oxide d'antenna? Ma commutatore d'antenna, che commutatore è oxide? Claudio, da due? Via. Cosa? L'oxin, commutatore antenna, da quante vie è? A 4. Ah no, vabbè. Io mi stavo tentando quello con due vie, però alla fine... non lo so, alla fine no. Ho venduto la KS, non mi serve più. Non mi serve quasi più, dai. Cioè se lo prendo è per così più, dai. Quello due vie però, che costa intorno ai 20 euro giù. Oh, non so neanche quanto costi quella, tutto dentro la scatola, tutta roba nuova, mai usata, ce l'ho fanata, nuova, tutta roba ce l'ho fanata, tranne i microfoni che sono usati, addirittura l'80 non c'ha manco spinotto, quindi ti metti lo spinotto che vuoi, mentre l'85 c'è lo spinotto pieno, come deve avere, capito? Mio, quanto non è mio, per quella radio che hai, io l'ho provata con la radio tua, ok? Che non era la mia, però l'ho provata a casa dell'animatore con l'MC80, la devi sentire con la radio, anche in AM, che ne baci le dita, non perché il vuoi che tenga. Sì, un momento, sono accordo di Ciulli, capito? Ho fatto quelli portatili di qui, da appena riesco a farli fuori, riesco a incassare i soldi, se no niente da fare. Ma non glielo preso cosa servi, che ti segnale a 9 più 60, tutto saturo, ma cosa servi se muovo a vedere nel locale, hanno detto che tu, che la gimbrana. Per farlo saldare che la volta che vedi è un po' fermo, capito, non per altro. Almeno scada la valvola, se no si più non vai a pagare. Adesso è un bel saturo qua, capito, ti devo attenuare, poi mi manca, se attenuate non tenga più a franco. Ottengo le 20 dB, c'è QRM, arrivi Santiago 3. Sì, io fondo scala, però sei saturo da me. Sì, danno 50 euro l'uno, è un affare, a me non mi servono perché non c'ho posto, io i microfoni ce li ho tutti. Molto probabilmente uno me lo ferrò, non lo so, però 50 euro l'uno con i microfoni sono da prendere al volo. Tanto un MB più 4, un MC80, ma stai scherzando. Avanti, Natalia. Io quello che c'ha Antonello l'ho usato col Turner più 2 da tavolo, una bomba era. I microfoni che spingono come l'80, l'80 c'ha molti acuti lo stesso, però è un microfono professionale, c'ha questa capsula ceramica e quindi funziona molto bene. Non lo so, forse l'80 me lo tengo io, lo metto su qualche radio, su qualche radio, non ne dutti il microfono, su quale radio, no, vabbè, vedremo. Avanti fra. Beh, mi sa che è stato quasi il doppio, no, in vendita. Ah, ma c'è 80, c'è 80, costa intorno ai 160 euro, 150 euro. Non lo fanno più, però se lo trovo residuo del magazzino lo troveranno meno i 120. Questo è nuovo, nuovissimo, anche l'altro, in buone condizioni. L'85 poi non ne parliamo, l'85 costa una barca di soldi, perché c'ha l'equalizzatore parametrico, capito? Però lui per farla fuori, anche la radio che ho dato, quel 440, veramente un peccato. Una cazzata mia, a livello di un baracchino l'ha venduta, nuova, in buone condizioni. Non dico perfettissima, qualche cosettina ce l'aveva, però presentabile, molto presentabile per il prezzo che era. Io l'ho anche provata, voi manco a corti ve ne siete, l'ho usata una settimana, e di quanto spingeva usciva anche, strappava anche, quindi sono riuscito a trovare una via di mezzo ed era perfetta. Sì, mi ricordo io che è leggermente più acuta come modulazione, però hai trovato un buon compromesso, dai. Sì, l'ho usata, poi l'ho staccata perché quando arrivi viene uno a comprarsi, devo stare a staccare, a farlo, l'ho staccata, l'ho messa a parte col suo cavetto, il suo microfono originale, e mi sono ricollegato la mia, capito? Questa è la mia. Vabbè. bene, va bene. No, no, sono gli ultimi anch'io, poi li ho avuti tutti quelli che ho, anche l'MC50 c'ha già, che è quello normale praticamente, dai, capito? Non amplificato. Che l'ho avuto anche io, poi l'avevo regalato a un radioamatore che me l'aveva chiesto, l'avevo regalato. Va bene, avanti Marco. Ma è qualcuno che non entra più in radio oppure semplicemente vuol far fuori un po' di roba? No, è uno che è da anni che non entra in radio. No, no, non è qua di sassi. È uno che si fida molto di me, ma non è la prima volta che gli ho venduto radio. Una volta mi aveva portato 2 HF, mi sono durati 2 settimane, mi sembra. Uno l'avevo venduto in continente e l'altro l'avevo venduto ad uno di Alghero. Eia. Bene, dai. Ho notato una cosa sullo schema elettrico dell'MB, più 5 o più 4, adesso non ricordo quale dei due, ma mi pare più 5. Lo schema prevedeva 2 tipi di capsule diverse. Una era la capsula ceramica e l'altra la capsula condensatore, come se per certi mercati usassero più una capsula rispetto a un'altra. Lo sai, l'avevi notata questa cosa sullo schema, l'hai mai visto? No, Marco, non ho mai visto. Io ti posso garantire che di MB più 4 e MB più 5 non li ho mai modificati, forse perché si adeguano anche alla mia voce, non lo so, però questi due che ho io, uno sul Galaxy, che la radio già la senti, ed è quello del Galaxy, e sia quello che ho comprato da Gigi Vulcano, sono due bestie con i microfoni, ma pompano di brutto, quello del Galaxy ce l'ho a 2 io, cosa che se attacco le MB più 4 normale, la GDBuni a manetta per arrivare ai livelli di quello, capito? Di uno o dell'altro. Comunque la cosa che ho notato prevedeva 2 tipi di capsule, nello schema figuravano tutte e due, però ovviamente nei nostri, almeno gli ultimi, usa quella condensatore. Ora sì, credo che per il mercato americano li avessero dati con la capsula ceramica, può darsi, visto che gli americani sono fissati con le capsule ceramiche e con gli estratti, no? Va bene, io preferisco quella condensatore perché la gamma tonale è più completa, la ceramica tende sempre ad essere più acuta, salvo radicali. Ok, vai Antonetto. BH, adesso staccato. Aspettate 5 minuti, vado a prendere sigaretta Simona, poi già sto rientrando fra poco. Eia, a da voi. Mi è crollato con voi, E beh, ero credo, quando uno uscire con 120, l'altro uscire con 15. Sì, da 3 sale a 9. Addirittura 3 ti arriva, ma la boomerang ce l'hai molto bassa. Da terra sarà un piano praticamente. Io sono al primo piano, ora sono il piano terra e basta. Eia, per quello. Ehi, se la mettessi sul tetto, già renderebbe molto molto meglio, pur essendo la boomerang. Pur sempre un quarto d'onda la boomerang, caspita, mettendola sul tetto renderebbe di più. Io nel 92, quando ero venuto a abitare qua, avevo messo una boomerang sopra, sul tetto col palo, solo che rendeva poco perché avevo pochi soldi, avevo preso 50 metri di RG 58, ed è sottile e perdeva molto segnale, abbastanza segnale, infatti non ne valeva la pena. Però se metti un cavo buono tipo l'H155, che ha lo stesso diametro del 58, è come un 213, capito, di guadagno, di attenuazione. Però è bello sottile. Ma l'interno è sempre multifilo? Ah, l'H155? Aspetta, mi stai chiedendo una cosa che non mi ricordo. Però ovviamente le c'hai. Guarda, adesso me l'hai chiesto ma non mi ricordo, io l'ho usato qua, ma non mi ricordo se era, mi pare multifilo però, perché è abbastanza flessibile, è come il 58, dai, come la RG 58. Poi, qua lo dico, qua lo nego, forse era multifilo. È morbido, sicuramente era multifilo, anche perché sei anche più sicuro per le torsioni, per le varie, non si spezza facilmente. Anche quello è vero, sì. Se non ho filo magari, sai, fai un angolo troppo stretto, tac, si io sono con 10, anch'io una quindicina di volte, quanto ti arrivo? 3, 4. Ah, è aumentato il segnale, hai regolato lo Smith. E 15 watt sono io, lo stesso, non c'è bisogno di, tanto siamo qua, cosa fai? Già va bene, Natali è tutto a posto con 5, sì? Eia. E gli caghebbe da Rune, danni di uno in più, un watt in più, capito? Uno, due in più. Se succede niente, capito? Allora che poi alla fine puoi dare il massimo e quei filtri stanno facendo un miracolo. Te l'avevo detto io. Certo, come ha spiegato Natalino, il filtro può attenuare le armoniche, non è che elimina i disturbi, li attenua lievemente, però insomma, quando sono troppe le armoniche non riesce a bloccarle. Va bene, dai. Va bene, va bene. Va bene, vai tranquillo, dai. Dunque bella amplificata la modulazione, è bella, bella da ascoltare. Non è troppo, è tutto alto, sia l'apparato che il microfono. Non è mai troppo. No, sono troppo da aprire. Mi fido di voi. No, no, è buono. Guarda, troppo era, veramente troppo era la modulazione Valerio D'Altero, tant'è che l'ha abbassata un po' e va meglio. Prima era veramente esagerata con la Valerio D'Altero, troppo, troppo, adesso va meglio. Oh, è ottimo, ottimo, ottimo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi metto l'altro 3009, metto. Ti faccio sentire la differenza tra questo, a parità di microfono, che ha il trimmer a metà, no? Della LC, come di fabbrica, e l'altro che c'è la sua manetta. Questo è uno già a manetta, non la LC l'altro, io sono levato solo la LC. Tu stai dicendo il mic gain nell'altro, beh il mic gain di solito si tiene sempre a tutta manetta, non c'è necessità di abbassare. No, ti parlo dall'interno, i trimmer. Ah beh, sì. Comunque guarda, i barattini escono sempre strozzati. Cioè i barattini, anche se non sono omologati, escono sempre con questa strozzatura della LC. Invece anche quelli ultimi, io ho messo la manetta, ce l'ha, guarda, il trimmer è microscopico in quelli nuovi, gli apparati che hanno i componenti microscopici, no? Sono microscopici anche i trimmer, piano piano lo alzi ed escono molto molto più meglio. No, quindi sono i classici, dai, ci sta un bel cacciavitino da qualche millimetro, 2-3 millimetri, basta. Sono belli i trimmer grandi, è un bijou lavorarci, ma in quelli piccoli devi anche premere piano, fare piano perché si può rompere facilmente, come è successo a qualcuno. Vabbè, nuove tecnologie che ci vuoi fare. Anzi ti dirò che ora come ora questi 3009, nonostante ormai tutti gli apparecchi siano in SMD, no, componenti microscopici, sono ancora in componenti classici come i tuoi. Sì, questo è il trimmer metallo, già scorre su una pista metallica sempre. Eia. Sì, è come fosse, no, non come, è una resistenza variabile, capito? Qualcuno fa la pazzia di levarlo addirittura, o di levare una resistenza limitatrice, ma poi esci troppo forte, capito? È proprio, non va bene, ci vuole sempre un limite, una resistenza limitatrice ci vuole. Io invece lo fa, il MB più 4 view io l'ho bello pompato. Cosa hai verificato? E nel circuito gli ho fatto un lavoretto, pompava che cosa male, sennò che non ho dovuto manco buono. Però ti fai a ritornare di nuovo? E beh, sto dicendo c'ho il chi è in, a metà, per non... perché questo va più di paurosi, di modulazione. Mi accorgo, se il cartello segnale ti porta, non so, a 7, vai tranquillamente a 9, 9, 10 di modulazione. Beh, figurati allora. Mi sembra che gli altri un po' avuto un quarto. Cosa mi dici, Marco? Mi avete parlato in due, mi hai scacciato a Marcolino. Sì, abbiamo ripreso insieme, no? Dicevo, quel baracchino, Franco, è roba mala, quello se metti tua manetta e il turbo modulatore è una forza della natura. Quale? Quello è natalino. Ah, non lo conosco. Se natalino glielo vuol dire, se no te lo dico tramite WhatsApp, dai. E diglielo uguale, dai, tanto non fa nulla. Ehi, Marco, diglielo, diglielo. Allora, Magnum Omega Force, noto anche come Magnum S45 HP High Power. Ah, mi sa che quando è entrato l'ha battezzato proprio, oggi quando è entrato in frequenza. No, non ho capito. Quando è entrato oggi ha detto Magnum 45, poi ha riferito al suo apparato, no? Sì, sì. Che si chiama Magnum 45 oppure Omega Force, scritto Omega Force. Spara forte, però purtroppo quello va bene in macchina, sai, quando sei in lontananza, praticamente tu, ti spiego, tu gli metti 2 watt di portante muta e ti dà tutto il resto di watt, 40 watt modulati. Ma come si fa a fare una lavorazione del genere? Si può fare anche su quegli apparati? Non credo, no, quello è nato così. Tu gli metti 1-2 watt che portante muta e adesso te le dà modulati. È un sistema diverso quello, è un sistema diverso. E c'ha dei picchi di modulazione paurosi, paurosi. E come le schede che cambiano su quegli apparati che conosciamo noi là? E come fanno tipo gli Echo Colse, vai, 48 Colse, dai. Una cosa simile. Sì, sì, anche quelli sono tutti modulati. Oppure se tu vuoi ne metti 40 tutti in potenza e puoi mettere 1, 2, 10, 20 quanti vuoi di portante muta e adesso te li dà modulati, capito? Oppure puoi mettere tutta a manetta 40 watt a manetta e però comunque sempre modula abbastanza bene. Se non c'è manco il turbo modulatore, gatta, qua è tutto staccato, non ti vanno di cibarci, no, guai, mica ti ho mandato la fotografia, fra. Mandala anche a me, Natalie, che non ce l'ho sul cellulare quell'apparato in foto, dai. Mica c'è un break, avanti, break. Mamma mia. Abbassa, che microfono gli hai messo? Abbassa! Lampa zira lo gomodo, lampa zira lo gomodo, c'hai alternata, metti l'MC60. Se tu magari mai non devi trattare senza mondesta, allora devi punire MC50 lo 440. Bobo, e poi chissà, magari vuole regolato, tu. E tu buona cosa è Anna. Ma ce l'ha la roba bella, ce l'ha. Mi fa dirare, ma lampa tira, MC50, ma mettilo dentro l'armadio per fare numero, ma io attacco l'MC60, voglio sentire sta radio, e non gridare. Aspetta. Aspetta. Due ne sto mettendo. Sì, lascialo così, dimmi Capri. Abbassa appena appena, hai toccato il Mickey Game, non ti capisco, sei troppo forte. Adesso non ti sento, aumenta appena appena. Corra, troppo. E allora abbassa le voci, cosa vuoi che ti dica? Allora, stacca il processore, stacca il processore, staccalo il processore. Sì, tu gridi, non puoi gridare con queste radio, non devi gridare. Ecco, lascia il processore staccato, aumenta appena appena. No, troppo 1,5, mettilo appena appena di meno di 1,5. Sono una bomba, eh. Così lo devi lasciare, Gianni, così. Non usare il processore col 440 tu, perché fai sorda la gente. No, no, allora ti devo registrare e farti ascoltare, ma cosa allucinante, gridi troppo, devi parlare tranquillo, piano piano, non usare il processore, così è una bomba, Marco. Ehi, vediamo un po' che mi è allontanato, fai un passaggio Capri. È già meglio, l'importante è che non parli a voce alta, parla normale, come sto parlando io. E ce l'hai anche troppo vicino quel microfono, allontanalo Capri 2, quel microfono, e parla a bassa voce. Bello. Bella è. Te l'ho detto Capri, lo fa una volta solo, hai fatto un affare, guarda, è una bomba quella radio, c'hai un segnale ancora più alto dell'altro 440, è una bomba. Una bomba, veramente esci molto bene. Sì, te l'ha detto Natalino, io mi tengo a 40-50 centimetri dall'MC60. È una cosa allucinante quella radio, fortissima. Così vai molto molto bene. Te l'ho detto, lo fa una volta l'accensione. Poi se tu lo spegni, lo riaccendi durante il giorno, non lo fa più. Lo fa solo una volta. E poi è funzionante in tutte le sue funzioni, perfetto, perché l'ho provato io e c'è un sacco di potenza anche. Lo senti fra Gianni Capri 2? Sento che parla ma non riesco a capirlo. Vabbè, tu sei in basso con l'antenna piccolina. Sì Gianni, vai benissimo alla grande, guarda, così la regolazione è ideale. Anche senza processore è fortissimo, minchia. È fortissimo, perché guarda, se io stacco il processore, guarda. Guarda com'è la modulazione, è molto più bassa, capito? Adesso riattacco il processore. Mentre tu, sembri col processore attaccato, Natali. Eia, perché non parla come deve parlare. C'ha troppi acuti lui. Va a strappare se non lo usa lontano e a bassa voce. A minabiso io come in TV. Allora è perfetto. Sentito il cap Natalino, esperto in Kenwood, ha detto che sei perfetto. E ho aumentato di altre 2 watt per farmi sentire, perché sennò altrimenti mi sentivi più basso. Come ti arriva a tenere lui? Però deve parlare a bassa voce, sennò va a strappare, va. Lui non deve gridare, deve parlare come sto parlando io, sennò si tratta alla chidillaria che subisce. Dico di segnare, cioè come ti arriva bene? E non l'ho guardato, la radio mi interessava, parla già. Dici, lascialo così a uno, va benissimo alla grande. Togli Natalì se c'è l'NB inserito del Megaforce, toglielo che strappa meno, io l'ho disinserito perché lui c'ha molti acuti e strappa anche a me, capito? Lei ci ha tolto l'NB e non strappa. Bella è Gianni, bella, una bella modulazione, hai fatto veramente un affare, te l'avevo detto ieri, vedila perché questo difetto è una stronzata, tu quando lo accendi, una volta che è accesa poi non te lo fa più. Mentre il mio l'ho dovuto mandare a revisionare perché lo faceva in continuazione, quello è solo sull'accensione, lo fa e basta, e poi è perfetta, no? Lo puoi spegnere, riaccendere, non lo fa più, non ho capito il difetto, non ho mai visto una cosa del genere, però per quel difetto hai fatto un affare perché il prezzo che l'hai pagato è veramente ottimo, ottimo, ottimo, capito? Vai, ma Antonello non c'è più, Antonello ci sei? Sono qui. Dai, riprendi e poi fai girare per Marco. Sta facendo bene il congresso, Gianni, a voi. È perfetto, è perfetto. Avanti Marco. Ehi, ho detto, sono geloso. Perché? Del 440, sono geloso. No, a parte gli scherzi, sono a terra, finanziariamente. Devo aspettare il 2. Mamma mia, sono proprio a terra, finanziariamente. No, ma poi, a parte gli scherzi, l'esperienza del K l'ho fatta, dai. Non mi interessa più, dai. Però è un bel apparato, rispetto a 140 quello già è molto più completo, non è parliamo, non c'è paragone, dai. Non offendere Marco, 140 è proprio un baracchino rispetto al 440 è un HF, lascia perdere, te lo dici. c'è uno che usa queste radio dal 1985, carta alla mano, carta accanta, foto sulla scrivania già col 430 nel 1985, con mia figlia vicino che c'è da 6 anni. Ok, cioè con cosa sto dicendo? Mia figlia è nata nell'87, non è ancora nata mia figlia, ma c'ho altre foto con il Kenwood dopo l'87 che c'è mia figlia vicino, quindi lo posso dire con molta certezza, 440 è già un HF perché c'ha tutti i filtri e una radio molto compatta, insieme al 430 che le sta molto appresso, ma 140 e 80 sono dei baracchini, baracchini a sintonia continua sono. Questa verde non c'ha niente a che fare con 340 o 140, è tutta un'altra macchina, è un'altra macchina, capito? Davanti o fra, riprendi tu, vai. Lo sento che parla, ma non riesco a tirarlo fuori proprio, sento che sta modulando. Non può mettere niente ancora come potenza? Sì, potenza già ne ha. Solleva, quanti watt lo stai usando già? Mettila a 50 a vedere. Tanto è marco delle vene, 9.30. Lo senti adesso fra? No, negativo, non cambia. Qua cambia come? Qua è passato 10 dB su. Sto dicendo, mi sono spaventato. Mi sono spaventato, l'ho abbassata io la potenza con la radio, perché quando me l'ha data c'era 150 watt in AM, l'ho portata a 120, poco più di 100 insomma, dai. Capito? Qualche regolazione te l'ho fatta io, uguale alla mia, perché era troppo, troppo. Prova da NFM a vedere quanti watt là. Mi ha dato quasi 200 in FM, allucinante con la radio. Non lo so che, se ci ha, se ha cambiato lo stadio finale, non lo so se ha fatto qualcosa, ma da più volte della mia, minchia, è un mostro. Sì, se le porti quella è un problema di, secondo me, qualche cazzata. Se le porti quella lì, il problema te lo risolve subito, l'altra magari, forse te la tiene lì, perché cambiare lo stadio finale è più complicato, ma lì è un problema di qualche tensione all'accensione che manca e quindi fa quel difetto, però tenendo premuto quel tasto che ti ho detto, con l'accoppiamento del WFO non lo fa. Non è una stronzata, proprio una fesseria, però la radio è, dico, perfetta, io l'ho usata e mi sono spaventato. L'ho usata in banda laterale, Marco, in 10 metri, fischiando. Il mio dava 130 watt PEP al fischio, quella al fischio in scala 200 arrivava al massimo con la T230. Figurati. Ma la T230 è quello che mi hai fatto vedere ieri e ho visto che ha solo 200 watt al massimo, no? Ho visto un selettore 20 watt e 200, quindi di più lì non gliene puoi mettere comunque, dai. No, beh, quello è di linea, quindi la radio è a scala 200 per far sì che non vada sul massimo della scala e manda laterale, capito? Per quella, il 930 dava intorno ai 150 watt in banda laterale, quindi è stato fatto apposta quella scala lì. Sì, 20 watt e 200 watt. Poi come hai visto è il commutatore d'antenna, rosmetro, wattimetro e accordatore manuale. Bello. Adesso vabbè, penso che gli apparati moderni ci hanno già accordatore incorporato, però diciamo che sono anche limitati, gli accordatori automatici. Tipo un rosso maggiore a 3 non riescono a accordare. Girano, ma non ci riescono. Invece i manuali sono. I manuali si puoi accordare da rete del letto con l'accordatore manuale anche. Oh, questo è perfetto. Lo uso io come accordatore perché non è stazionario, è collegato. Il 27, però hai visto la linea 780, con quello sono uguali, è di linea anche del 780. Va bene, facciamo girare, dai, avanti Antonè. Ehi, volevo dire a Franco se mi ascolta adesso. Franco, mi ascolti? Sì, hai aumentato il diretto di Santiago 6. Sto usando gli Aesio adesso. Come va? No, va bene, il segnale è più forte, la radio è un po' opaca, un po' cupa. Guarda, adesso è 1, 3, 4, 5, 6. È un po' più amplificata, però non è una radio da 5 anni. Oh Antonio, un attimo che devo mangiare il cane, arrivo subito. E ok, è il microfono normale questo, dove gli hai detto, dove effetti 8, 5, 7. Non è il massimo, però si è accorto bene in questa prima. andato a dar da mangiare il cane, dai, poi già torna. Un attimino. Antonè, come mai adesso sei più cupo? Uno, due, tre, guarda un po', così come la prima. Ora, ora, ora, ora. E così è la tua posizione del microfono, dove c'è il tastino. No, dimmi i numeri. Qual è la posizione buona, la 1 o la 2? Così è la 1, così è la 2, guarda un po'. La 2, la 2, molto migliore. Ehi, pensa Antonè che io l'ho migliorato quel microfono, perché prima era bruttissimo, bruttissimo. Gli ho cambiato una resistenza e un condensatore. Molto molto molto meglio, e infatti è abbastanza buona. Ricordati, posizione 2, ok? Ehi, già capretto, non c'è problema. Anche per me posizione 2 è ideale. Ti avevi presente che non è un apparecchio CB questo, quindi questo fa tutto, fa che i piatti e la vostruviglia. E anche 43 mega. E anche il caffè il mio faceva, e poi era perfetto di modulazione. Forse se lo ricorda quando me lo mettevo in macchina Antonella. Antonella, come uscivo io con quello lì? Con la bomba uscivi, adesso quando me le recupero l'adattatore per il microfono, te lo porto e chiedi a quello là se ti dà i parametri, così lo facciamo uguale come ce l'avevi tu. Infatti, perché senza i parametri il mio era tutto regolato, in qualsiasi posizione lo mettevo andava. E che microfono avevi? Quello normale, e poi quando lo usavo col Turner più 2 si è anche spaventato il vicino di casa quando l'ha sentito, una bomba. Minchia, devi trovare le impostazioni a tutti i costi, al costo di pagarle, ti do i soldi e gliele paghi, però ce le dobbiamo far dare. Cosa? Le impostazioni di quella radio. Bisogna che lo trovi e glielo dico se me la dà, perché io quando lo usavo qua andava, lo volevo usare in AM, andava in AM, in FM, in SSB, in ogni posto lo mettevo, era regolato e andava direttamente senza fare nessun aggiustamento. E poi in FM andava già bene, in SSB lo stesso, e la M è sempre il problema maggiore di quegli apparati là. Però l'ho migliorato molto, e molto, se no era molto molto peggio la radio. Bene, ce ne sono 18-25, fra poco cambio apparato, dai. Così faccio sentire a Franco l'LC, la differenza tra l'omologato e l'altro con l'LC più aperto. Pompa molto di più. Adesso io lascio il volume, lo metto sulla metà messo, e vediamo un po' cosa cambia. Franco, vista là quella che ti ho mandato? Sì, ti ho mandato anche la mia, l'hai vista? No. Non l'ho guardato, adesso la guardo. Che da fatica un po' di luce accese, forse da non fastidio un po'. Ci sei ancora? Ma qui? Ma sta lì? Oh, dimmi. Capri, che zona è? Auri, no, Auri, no. Muros. Beh, non arriva qua. Cioè, lo sento che parla, ma non riesco proprio a capirlo. Vuol dire proprio, sono... è negativo per me, dai. Ma no, mi sembra che non ti sentiva. Non sentiva manco a me quando ero con un watt. E adesso quando ho messo a 5 mi sentiva. Però qua arriva a Santiago 5, non ti credi che arriva di più, no? No, qua il segnale sale appena appena 0,5, a volte arriva quasi a sfiorare l'1, però è tutto QRM, si porta avanti un po' il QRM e basta. Oh Franco, dimmi, ma modificati questa modulazione, mi ci vorrà un po' attaccare i cavi di antenna, però questo è quello omologato, adesso attacco l'altro, dai. Ok, riprendete voi nel frattempo, dai. Ma è già attaccato là? No, caspita, è che c'è un flash. Come, questa è buona, è bella, chiara, tranquilla, senza frontoli. Hai visto la radio che avevo interviato? Sì signora. Ah, parecchie così. Poi c'ho un President, una Lincoln, di qui Lincoln, poi c'ho un altro di quelli vecchi 120 canali, insomma. Ne ho un altro tipo questo. No, io qui ne ho due che sono simili, cioè il Samurai e il Super Galaxy, sono esteticamente sono uguali, cambia qualche cosa su una. C'ha la banda in più uno, però uno esce con 20 watt, l'altro con 10, in uno puoi togliere il bip su questo, lo posso togliere sull'altro no. E basta, per il resto sono uguali. E infatti. Adesso ci sei ancora? Chiama Capri se ti sente, perché almeno mi sente. Franco? Sì, sì, più forte questa. Ecco qua, allora questo è il medesimo apparato, sto parlando con lo stesso volume di voce, l'altro ha il display rosso ed è omologato, questo ha il display blu ed è un po' meno omologato, ma c'ha sempre 5 watt, la potenza è sempre normale. E il microfono è lo stesso, l'ho tolto dall'altro e l'ho messo qui. E i picchi di modulazione salgono molto qua. E come ti sembra rispetto all'altro? Più squillante, più forte? Sì, più forte, si sente che sta spingendo la radio, Eia, per diremi, un trimmer grossomodo a metà, una LC a metà e una LC a manettone. E tutto qua, dai. Poi bello, questo c'ha la luce blu, insomma, è carino. Poi guarda, per me il 3009 è il baracchino per eccellenza, è il migliore. Tra tutti gli altri potrei venderli tutti, ma questo è da tenere. Ma te provo anche a mettere il microfono l'originale, a vedere come va con questa regolazione che ho fatto all'interno. Ci vediamo un po' dopo. Eia. Oh, Natali. Dimmi. Ufra. Aspetta che mi hanno apparecchio, microfono, Claudio. Ehi, Gianni. Io pensavo che avessi già tutto pronto, Gianni, è ben normale. Ma per fare la nicchia stai dicendo tu, per portare il polietilene? Ah, devi sfasciare il marciapiede per arracciarti. Ho capito, certo che sì. Vai in comune e chiedi già, perché di solito quelle domandine ce l'hanno già prestampate loro, però evidentemente non ce l'hanno per quel paese, capito? Quindi vai in comune lunedì o domani mattina e chiedi cosa devi fare. E penso che ti autorizzino lì all'assessorato alle manutenzioni, capito? Cosa vendi? Tubo? Sì, PN16 diametro 20, sì, PN16 è praticamente il tubo, capito? Però il diametro è 20, sì, quello che ti ho detto io compra. E già, ma i fili di che cosa? Non ti capisco, perché fili ci vanno in un contattore? No, se metti il cavo quello buono, metti un... cosa devi alimentare? Non lo so, ma metti un 8 mm, 8 mm quadri, 6 mm quadri, non so che cosa devi alimentare. E poi qua dei cavi che vanno interrati, vanno sempre dentro un corrugato, capito? Quindi sono protetti. Perciò se lei non ti ha detto così, fallo così, già, non lo so. Io di acqua mi occupo, ancora per poco, però di Enel non so cosa dirti. Vediamo se Franco ha messo il microfono normale per fare la prova, vediamo, va, Franco. Capa, questo è l'originale. Bello, bello anche quello. E invece l'altro hai detto che? L'altro è lo Shure. Ah, lo Shure, sì, quello con quel coso rosso. Ehia. Comunque sì, lo Shure è più amplificato, giustamente. Però sempre limpida la radio, è molto molto chiara. Questo è come mamma mia. La pappa perché un po' l'ho smanettato dentro, però è tutto originale, dai. Ehi, sicuramente avremo anche lo stesso tipo di microfono, dai, con la forma lì, dai, va bene. Chi c'è rimasto qua? Antonello? Io. Ah, ti volevo dire, mia, è nata lì. La NL non lo mettere, perché la NL, quando ci sono modulazioni molto larghe, tende a farlo strappare. Io la NL l'ho tolto e per non sentire quel pungente QRM di fondo ho messo un appena appena di squelci, pensando ad allevare il fruscio di fondo, e qua è come essere in UHF, sono mollati tutti, c'è silenzio, bello, e quando parlate vi sento semplicemente, va bene, io te l'ho detto. Beh, quindi la NL vuole tolto, così è. Emmo è tolto l'ho. Beh, Eugenio, al lavoro? Ah, giusto, stai arrivando, sì, bene il segnale, il tuo tipico segnale, dai. C'è Claudio, Natalino. Fai un curvo, un carro. Pomponio. Come si chiama, mannaggia? Muros. Gianni Capri 2 anche, dai. Vai, Claudio. Ciao, Eugenio. Buonasera, ben ascoltato. E che serve dire? A voi. Guarda che io ti vedevo davvero, mi ne fermi, cioè, se lo ricorda Marco e Claudio, mandavo tutte le telefonate in diretta del vicinato in FM su 105. Poi Eugenio, adesso che sì che ti sento bene, e il segnale 8 sei qua con questa parecchia di 5. No, una volta che sento Antonello dare lo stesso segnale che do io, Santiago 8 anche io. Perché sto usando un apparecchio serio. Ah, vedi, allora non è la posizione, sono gli apparati che c'ha lui. Santiago 8, anche a me arriva il genio con 440. Santiago 8, finalmente Antonio, siamo solidari. No, no, Santiago 8 arrivi con picchi leggermente positivi, ma Santiago 8 uguale a Antonio. 8 anche a me arriva. Se ne stacco quella reale che c'ha davanti, ma gli metto quelli della Gran Play, vai come migliora, che non ha niente. L'intenzione di salire sul partetto, torna a fare, quando nel caro la 1 a 1 prendo, ci metto quelli della Grand Play, tanto ci stanno giusti giusti all'interno, non devo toccare nulla, se mi infilo a incasso e mi sono e ho risistemato la mantova. E la misura è uguale? Sì, al diametro è uguale, perché rimane il pezzo della radiale vecchio naturalmente, c'è un infilo all'interno, no, subito tocca forare e fare una modifica un po' strana, non aggiugare, a smontarla. Ho già smontato una volta la mantova turbo, tutta quanta, non ho più nessuna voglia di smontarne, anche la ciclo è smontato. Qualcuno si scappa sotto, no? Intendevo dire la misura della lunghezza lì. Nella mia 27 anni usavo il radiale della Gran Premi, che usavo il radiale originale sui normali, e pompava come antenna, addirittura andavo tranquillamente in 45 metri a parlare. Figura di tu. Che è fiato avanti? Non più forte. Avanti, non più forte. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Buona, buona. Buonasera, Massimiliano. Non mi veniva. Non è entrato, che vuol niente. Pagone. Oh sì, che saluto all'altro, a me non mi saluti. Cos'è? Avete salutato gli altri, a me non mi hai salutato. Io veramente ho diritto, buonasera a tutti, se tu sei sordo è colpa mia. Io non so, buonasera a tutti, a me mi vedi ciao Claudio Sparviero, capo di Bugnetta, capito? Ciao capo di Bugnetta, allora. Bravo, ciao capo di Bugnetta, adesso ci siamo. E invece stai scendendo bene. Capri dove ci sei ancora? Oh, senta Capri, cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu, istigatore? Gianni, ci sei? Comunque è 8 anche da me, Eugenio. Santiago 8, almeno questo baracchino è 8. Sì, ma c'è Franco che parla dalla, praticamente da Viale Sicilia, dove c'è il coso lì, la ferrovia. Ecco, l'antenna della macchina ti va più forte di te a casa, Santiago 9, e tu con l'antenna che vai arrivi Santiago 8. E allora? Cosa fa? A me senti? Eia! Ho detto che ha messo sottoterra quella... l'antenna di Eugenio, sottoterra, ma è furto. Ma è strano, però, cioè io ce l'ho a vista perché il porto Torres mi arriva fortissimo. Caspita, c'era la mamma di Giampaolo Silvestro, col di Polo mi arrivava a Santiago 9, dove un'antenna esterna, cos'è? Una mantova, cos'è? Boh, non lo so, l'antenna è Santiago 8, e anche Antonello arriva a Santiago 8, anche a Marco, magari a te ti arriva più forte perché sei più vicino, non lo so, però qua arriva Santiago 8, mi sembra un po' strano. Aspetta, domanda. Eugenio, ma tu avevi la Energy, ci importavi? Claudio, non è una mantova. La Energy è leggera, ma rende meno della mantova. Capito? Se fosse una Siri 827 pare la mantova. Ma la Energy è leggermente meno efficiente. Capito perché arriva così? Non è così. Marco, non è così. Lui l'ha messa, c'è un palo di 2000 e in una vallata, capo, ed è bassissima, e lui la solleva di almeno 4 metri con l'antenna, allora la musica cambia. Ah, ma lui è un fossato. Oggi io l'ho visto, amico, ma ce l'hai l'antenna, bassissima. Allora va bene, lui deve farlo di 6 metri, quando l'antenna è buttata a 2 metri da terra, e io, ma io già te l'ho detto l'altra volta, no? Di buscarti un palo che vuole sollevarla. Era basso, è per quello che arrivi basso. Va bene, io entro in doccia. Ciao, buonasera a tutti, riprendi qua. Ma adesso sei uscito. Ah? Adesso sei uscito. Ehi, a me, sono arrivato adesso, acceso, entro in doccia, va, a dopo. Due giorni senza pippare sono, Mamma mia, che bravo, mamma mia, come ti hai fatto? Beato te, Massimi, beato te. Io non ci riesco, sto fumando meno, ma non ci riesco. Per questo periodo sono come nervoso, dove c'ho mille cose da fare, non riesco a staccare dal lavoro, è un casino. Vabbè, dai, vado a rilassarmi da lunedì in poi, se ci riesco. Avanti, a chi tocca, Capri 2, riprendi tu. Cazzo, massaggiarsi le balle. Già, ma non è meglio che ti metti a posto della vasca due brasiliane che ti massaggiano? Già lo so, io a coso, una volta cazzo che adesso è morto, che modulava qui da Monte Bianchino, che avevo agganciato qui. C'era la mantova 1, avevo agganciato 4 da Viale di Grand Play, riusciva fortissimo. Poi, vabbè, è stato un periodo che non entrava più, dopodiché era morto, capito? Adesso non mi ricordo, Roberto si chiama, Roberto non mi ricordo adesso il nominativo, presente qua sulla Monte Bianchino. Mi sembra Roberto Smith, ma una cosa del genere pare che. E c'è stato CP qua vicino, che modulavano. A voglia, adesso manco una donna a tirare la balla c'è adesso. Eia, io ho preso il filo del discorso che mi ero distratto, dai. Comunque, caspita, sta uscendo veramente bene quella radio. Bene, bene, bene. Per quello che l'hai pagata, aspetta, ce n'è d'avanzo, dai. Eia, mi ricordi del fiocco di neve. Il fiocco di neve era quella che era in serie a carrozzelle, così. Mamma mia, ogni luce del mattino, che a me la voce mi faceva raffare. Il giorno che l'ho vista mi sono nascosto, cazzo. Mi si è mosciato tutto il corazon. Carissimo. Su, c'è il problema. Ah già, Lucia di Flore, non ti lamenti. Con chi è Eugenio? No, io da Porto Torres mi ricordavo Marcello Master. Noto belli capelli. Ma buona mai Carlo Tittano lo chiamava Marcello Guaster. E molti lo chiamavano Marcello Guaster. Io in quegli anni ci scivo anche a un Marcello, con fratello. Modulava lì da cosa, via Rossini mi sembra, non so se avete ancora libro, capito? Io quando abitavo a Porto Torres a casa di mamma, però qui sto parlando degli anni 80, perché qua sono arrivato nell'83, quindi 79-80 che parlavo lì da via Cavour, eravamo parecchie, avevo una amica, lo chiamava Marcello Guattari, io lo chiamavo Belli Cappelli, era sempre tutto bittinato. E gli abbiamo ricordato a Giannetta, non gridare però, non gridare, cazzo mi stai facendo sordo, la maschera che te ne vari, a te o 4:40, buru. Se l'amo del tuo Lucia di Proare, che facevi l'amore dalla mattina alla sera. Se no, quella oggi, non so se tu te la ricordi a Marina, quella che parlava dal faro lì, dal faro di Porto Torres, che il padre era il guardiano del faro, con Maria, ma mai l'hai vista? Cazzo di lui, Antonio Benelli, il noto Zarretto, sì, che Antonio partiva la mattina presto, alle 6, io ero già in radio a quell'ora, ancora ero sempre a casa di mamma. Quando ce ne va la sassa, per andare a Porto a prendere il pesce, Antonio, e da entrare via romanzano, Antonio, quando è che ci conosciamo, Antonio? Tanto, io andiamo a conoscere la vita, che mi ha pigliato le balle, io andiamo, sì, però ci nascondiamo, ehi, vediamo l'appuntamento, partiamo lo varo a Peri, tu esci, noi stiamo arrivando, intanto lì si è uscito da lì tanto nel baracchino, sì, così ci conosciamo. Marco mio, cazzo ci aveva i baffi più lunghi dei miei. Fuggi. E vabbè, purtroppo la natura è impietosa. Una bella mia modulazione, una bella modulazione ci aveva, tipo luce del mattino. Cazzo, intanto non ti fa vedere Fuggi. Poi ci chiamava, Antonio, Claudio, io sono uscita, però voi non ce l'avate. No, abbiamo bucato col furgone. Mamma mia, oggi, ma brutta, io avevo conosciuto anche il padre, non so a chi ne è uscita quella, per carità. No. Dai, riprendete, fai girare Antonio. Ma se mi hai mandato una foto? Sì, io voglio me la ricordo, la magistrata parlava. Sì, non abitano più lì, il magistero ormai ha eliminato il questore, non c'è più. Da quando l'avevano rimesso a posto, cioè rifatto, hanno eliminato il questore, capito? Non c'è più niente, c'è solamente un'antenna per TV e una per ricezione satellitare, infatti. Ma chi non lo vede più? Io ne ho conosciute ben poche, non andavo molto a conoscere, stavamo nella greffettina nostra, avevamo la greffettina sul canale 1 sotto, capito? Nemmeno sui canali normali, sull'1 sotto, per non essere disturbati. Andevamo. Era lì il bus, visto. A me è rilanciato Capra. Troppo due le conosce, Becchino, e te questo Becchino. E toccai mio cugino Ernesto. No, toccai, si chiama così perché lui aveva un toccai. Ah, aspetta! Aveva un toccai 5024, usava quello, Ernesto. Vabbè, bei tempi, bei tempi. lei gliel'ha visto. Perfetto, che gli hai fatto? Offra, sto pensando, andiamo da Imma domani a Campanella, ce la facciamo? Bene, sì. Sta bene, Melli, la pizza è buonissima, veramente buona. E se decidiamo di andare lì, lo devo chiamare per lasciarci un tavolo, capito? Chiamalo, non c'è un problema, dai. Ma dire vanno però, c'è che la buia chi da si incatta vuole andare da un'altra parte. No, vediamo, va bene. Allora lo chiamo, glielo dico per domani. Domani sera verso le 8:30, 9, anche più tardi. Verso le 9. Avete parlato in due? Mamma mia, forse mi hanno al telefono, ecco, hanno, va. Tutti e due al telefono. Due. No, si incicciano al telefono, così sì. Avanti c'è quella batteria. Quando stanno al telefono, un'ora stanno. Per me va bene, va bene, va bene. Ehi, ma ho detto, ma il maxi schermo ce l'hanno a Campanella? No, sì che c'è, già c'è, glielo dico io, adesso lo chiamo io, glielo dico, per domani sera alle 9 allora fra, in 4 siamo, però aspetta, no, devo sentire l'aria, perché molto probabilmente viene anche l'aria, molto probabilmente, non lo so, perché è a riposo domani, capito? Quindi sento prima l'aria, poi lo chiamo più tardi, quando viene l'aria poi lo chiamo. Ehi, non c'è problema, già lo sai. No, tranquillo, già c'è vino buono, ci fa questo buono, la pizza è la migliore di tutti, vero Marco? Ehi, la pizza sì. È vero? Oh, vabbè, no, già ha capito Claudio. Cosa? Non lo puoi mai sentire. No, che qua Franco, però c'è un antenino, c'è una boomerang molto molto bassa, e quindi non mi sentite Eugenio. Franco, Fra, nominativo ne hai? No, adesso non ne ho. Prima ce l'avevo comunque. Eugenio, Franco e Bo. E a me mi senti, Eugenio? Speriamo di sì, boh. Sto scendo basso mio, sì, perché non, già lo sai, se no cosa faccio. Metti in preventivo quel filtro, mi Natalino. Che cosa stavi dicendo? No, con Natalino sto dicendo. Ho detto metti in preventivo l'acquisto di quel filtro, mi. Ah, parla qua Natalino, se no non comprendiamo più nulla. Parla qua, rispondi qua. Quello teniamolo come monitor, boh. Ho detto Eugenio, per la cronaca. Non lo puoi sentire a Franco perché arriva a Santiago Nova a casa mia, quindi da te non ci può mai arrivare, non lo sente manco Gianni Capedua che è a muro, capito? C'è un'antenna piccolina. Tu diavolo, già la seconda volta che mi dici se lo va vedendo con te, Gus. Tu come ti chiami, Eugenio? Con te sto parlando, ti ho detto che non lo puoi mai sentire a Franco perché c'è un'antenna piccola. E già si è attrezzato, penso che si sia attrezzato. Non è pantalone varavara, ma pantalone varavara sembra. No. Quindi gli hai attrezzato, va. Lui è attrezzato, Gedo. Va bene, va bene. KK, sì, va bene, fra, dai, allora andiamo da Ivan, che si mangia bene, sta bene, un bel posto. È un pochino più lontano, però già va bene. Cosa è lì? Non ci volete ambriagarmi? Oh yeah. Forse qualche bicchiere in più lo bevo al 60° anno di età, però fa 2 anni. Tanto festa per la pensione non la faccio perché non mi interessa niente. Ho qualcosa l'ultimo giorno che vado via, che dovrebbe essere il 30 di novembre, che siano il 17 sono in ferie, da domani praticamente, da domani siano il 17 di novembre sono in ferie, e poi rientro e vado via il 30, quindi insomma vediamo un po' cosa dovrò fare, ma già sono bravo, io non ti preoccupare. Fra, mi meraviglia uno che gira come te, Anna l'ha domandato, Anna, in via Campanella, io. Gira dito lo telefono, dov'è Campanella? È venuta qua a chiedere la merda, dov'è Campanella? A Porto Torres, Prato dei Due Mari, neanche un chilometro si è arrivato, dopo Porto Torres. Ma chi, ma Anna tua o Anna mia non lo fa? No, Anna tua, Anna mia c'è anche venuta. Siamo andati, noi siamo andati da poco lì, capito? Ah, il giorno che ti ho telefonato, che mi hai detto che eri ad Alghero? E c'avevi gente, e quel giorno lì siamo andati. Ma non posso andare in pizzeria magari. Vabbè, ci fanno un po' di gente di Sassari, forse anche perché il pizzaiolo è sassarese, capito? E quindi si trascina un po' di gente, c'è Sky, Mediaset in premium, ci saranno anche le partite, perché allora quello lì c'è, mi pare Roma, non so se Roma-Napoli, non mi ricordo. Già si mangia bene. Avanti Natalino, riprendi e fai girare per Capri, aiuto. Dove c'è il tiro a volo, Eugenio? Andando per la strada di Mare, dopo che passi a Zio Falchi lì, no? A Rosario, alla cantoneria di Rosario in Chivi. Vai un chilometro più avanti, c'è il cartello, tiro al volo. Si entra lì e c'è la pizzeria. Dove c'è anche la pizzeria di, come si chiama, di turismo che poi è diventato ristorante, vai, non so se prima o dopo. Dopo di quello è. Esatto, prima di arrivare da Magia. Io fate girare, dai, però, se no mi trombo. Tanto fra un po' poi vado a portare il cane, vai. Io, bravi, fate girare. Ciao G, alle prossime! Ciao genio, vai Natalino. Ciao G, ciao. Avanti Marco. Allora, ciao Eugenio, a dopo, ci siamo ancora, dai. Già non ho voglia di parlare, parlate voi, aiuto. Ho chiamato la foto, l'hai vista? Sì, di quel Galaxy di Super Galaxy. E mi ricordo anche il logo come è scritto Super Galaxy, me lo ricordo. Mi senti bene anche nella foto, dove c'è la parte bassa? Quella scritta lì sotto la mano per i canali si vede, me li ricordo quei caratteri. C'è anche il microfono, la scelta della sigla. Quelli tieniteli conto perché non li troverai mai più con i componenti classici, a meno che non rifacciano ulteriormente questi 3009. Però va bene. Chi altro c'è qua? Boh, faccio il conto, dai. Capri, vai tu. Già, io ti devo dire una cosa, che esce molto più forte dell'altra che hai comprato, è molto più bella la modulazione, se la usi così, se la tocchi che gridi è tutta passata, così è bellissima, sì, 9,25, capito? C'hai un segnalone allucinante, la radio fortissima, bella, pulita, lo sto dicendo, è una bellissima radio quella, hai fatto veramente un acquisto eccezionale. Tu non ti volevi fidare, ti ho detto lei a dire, a me non mi serve, capito? Perché ne ho già due, se no ne ho troppe. Invece tu ne avevi una, adesso ne hai due. Però sia una che l'altra, ma questa esce molto molto bene. Ripeto che l'hai pagata, è eccezionale come radio, capito? Eia, sì, fra, va bene, dai, va, fra, mi scusa, Gianni, va bene, dai, ci sentiamo più tardi, allora, dai, una passeggiata anch'io, sino alle 7:30, poi riesco a portare il cane avanti, Marco, riprendi. Non ho voglia, li prendete voi, dai. E te sei mandigende? No, non ho voglia di parlare, basta. E come mai, cosa ti è successo? La macchia ti è venuta? Oggi mi era venuto a capogiro più volte, capito? Ho la cervicale oppure un disturbo solito. È lungo da spiegare, quindi non ve ne spiego. Vai, vi prendete voi, dai. Va bene, dai. Mal di donna, quello è quello che hai tu, mal di donna. Franco! Mancanza di vitamina F. Mancanza di vitamina F. Sono sicuro che se stiamo giro di quella specie di monopatio, avete mangiato tutto. Hai visto? Fatti un giro nella stanza anche tu. Ma come? Dritto o a 90 gradi? Ah, basta ti mettere le manopatti, l'ho mai visto. Ehi, quei cosi elettrici che vanno di moda adesso. No, io preferirei dritto. Buona rete anche la T-Fi del video. Ma va, la mando al mio dirigente. Rifiuto, inizia a farti un giro nella stanza. A 90. A 90 gradi. Cis. Domani ti faccio vedere il foglio che mi ha mandato l'Ips, fra, da paura, dal 1976 ho iniziato a lavorare. Ma io non mi ricordo, no, io purtroppo sicuramente che tu sia avanti più di me. Ma lui io ero vinto dall'86, invece dal 76, 16 anni avevo, apprendista, tutto bacio, dall'A alla Z, guarda, una cosa perfetta proprio, perfetta. Io avevo 5 anni quell'anno. E io ne avevo 16, fate il conto. E io 18. E lo so che tu sei vecchietto. Beh, tu sei tu. Natale, 2 anni più già, e sono tanti. E io, beh, te sei nato prima. Tu non conti, tu ne hai 89. Ogni tanto bisogna che ti ricordo. Marco ne ha 42 o 44, mi sembra. Così è, Marco? 46. 46 ne hai? Pesce, che... Se a 46 anni ero così mi sarei ammazzato subito. Infatti, provvederò, dai. No, dico, nel senso buono, capito? 46 anni, minchia. 46 sono tanti, pensavo di più giovane. Sono tanti, 46. Caspita, fra 4 anni fai 50 anni anche tu. Inizia a prendere la discesa. Sì, l'ho presa già da una dia che l'ho presa la discesa. Eia, però non li dimostro, cioè certe volte non me ne danno, non mi danno quell'età, dai. Vabbè, anche a me quando dico ne ho 58, ma non me ne danno, me ne danno 55, 54, vabbè, però ci sono, me li tengo. Questi messaggi l'ho ricevuto ieri, ma avrò modo di farteli vedere, allucinante. Nastro, mandamene altre 4, dimmi dei messaggi. Dove ero tempo di Regilio? Stavo dicendo, non mi ricordo più, vedi, anch'io lascio la pensione, mi sta venendo la teme. Oh Claudio! Oh. Guarda, lo Scoglio Lungo, vari anni fa c'era una signora, così che parlava con noi, dice, mi ha detto, ma tu sei alle superiori e le hai finite? Ho detto, guardi signora, io ho 33 anni, veda lei. Capito, credo che fossi ancora ai superiori, tipo 17enne, 18enne. Un fuori quota, là. Cioè credo che io fossi sotto 18 o sotto 18, ne avevo già 33. Cioè dimostravo sempre più meno anni di quanti ne ho. Cioè praticamente questa ragazza, questa dello Scoglio Lungo, cosa ti ha detto che avevi 18 anni? Ah, io, è chiora della Recci. No, mi chiedeva, diceva, ma tu sei alle superiori o le hai finite? Ho detto, oh, signora, guarda che ho 33 anni. 33, ahi, non le dimostra per niente. Infatti, sembravo sempre più giovane io, capito? Ah, vabbè, che c'hai la faccia da cosa, da bambinetto, capito? Tu con quella chioma di capelli che c'hai, se mio figlio è Marlon Brando. Quelle li ho tagliati molto, eh. Ah, li hai tagliati? Vediamo. Ma non è che ti voleva abbordare, no? Aspetta, Fra, non ti ho capito, dimmi. Ma non è che ti voleva abbordare? Abbordare chi? La signora, dello Scoglio Lungo. No, per carità, spero di no. Era anziana, molto anziana. Quella ancora? Molto anziana era, ma credo che fosse ancora ai superiori. Ho detto, c'è una lì signora che l'ho finita ai superiori. Ma comunque non dimostri veramente. Vabbè, anche se non dimostro sempre quelli sono. Adesso il viale del tramonto inizia a me, capito? Prima è tutto in salita, poi si arriva all'apice, poi è tutto in discesa, fino alla bara. Mamma mia! Quant'è la vita media dell'uomo? No, 80 anni più o meno. Siamo aumentato anche l'età pensionata, perché abbiamo... specialmente le donne, siamo di più. Qua c'è la vita media 80. Quando hai 40 anni già un piede nella fossa. Quando ne raggiungi 80, anche l'altro piede entra nella fossa. Del tutto. Si sa che più di 80 comunque. Ma chi? L'età media. Chi? Ora Giuseppe, se lo vedi, sembra un giovanotto. 88-89 già fatti lei, Giuse, dalla sedia si è caduto. 89 quasi ne deve fare, capito? Credimi Fra, che è sempre come l'hai lasciato tu, sempre giovincello, un po' acciaccato ma sempre attento, Io l'ho visto, non da tanto, io lo ricordo, Che noi il giorno che andiamo ad Alghero, Giuse, il giorno che vengo ad Alghero con Franco ti porto a Franco, bene va, va, ciao godendo, sta benissimo, già te lo porto, e Franco so che era il tuo pupillo, te l'hai portato da Palau a Sassari a Franco, senza treno, a piedi ti ha fatto venire fra. Altre immagini che lo sento a Giuseppe, quando ha detto benissimo l'ho sentito. Io non lo vedo, mi dispiace, salutare con voi. Franco, ma tu eri in Palau? No, ho lavorato lì, ah, ok. Forse che Franco, ma come hai capito? E Giuseppe era il dirigente di Franco, capito? E quando Franco era a Palau, che lavorava a Palau, a lui serviva una squadra e si è portato a Franco, l'ha fatto trasferire da Palau a Sassari ed è sempre lì, capito? Quindi è per quello che ci tiene a rincontrarlo. Sì, sì, ed è liscio, Giuseppe non si è agganciato, vero? Agganciato sì, e che potenza ce l'hai? Bassa? Ah, così, vabbè, Santiago 8 sì, perché se lo agganci del tutto, se lo metti a manetta 6-9. Già va bene. Ciao Valerio, buonasera. Giuseppe, trasporto io dove è, con la radio come quella di Valerio. Giuseppe, ascolti. Ah, mi ascolti Giuseppe, mi ascolti? A chi? Scusate, ma lascialo perdere a Valerio che ti sta provocando, Giuseppe. Giuseppe, mi ascolti? Mica c'è Massimiliano ti sta chiamando, non senti a Massimiliano. Ah, io Massimi, chiama Giuseppe. Ah, mi ascolti Giuseppe? Guarda un po'. Ma non lo sentite a Massimiliano Barbiero? No, ma uscendo sta la radio. E se 9.30 no, che uscendo sta? Ma mi senti Giuseppe? Non vedi che te la porto io una radio come quella di Valerio, se ti piace. Sentite Giuseppe cosa ti ha detto Massimiliano? Che per dare fastidio a Valerio ha detto che te la porta lui una radio, così lo crepi a Valerio. E se Giuseppe le porta il Cobra o il Superstar, quello Colt, ti fa barba e capelli, vedrai che te lo fa sentire lui l'ecco. No, con quel lineare, che lui è anziano. Se ero stato io lì al posto di Giuseppe col Superstar che c'ha Massimiliano e quel lineare che c'ha, la vista vigliata buona, Gigulecco. Ma quell'antenna si scioglie. No, oh, 300 watt non fa niente a quell'antenna, già va bene, perché non la sta usando. Vabbè. E che c'ha, a parte il fatto che da domenica Giuseppe esce con l'MB più 4, quindi lo sentirete un po' più forte del radio. Sarebbe anche ora. Vabbè, speriamo bene. Domenica le porto sull'MB più 4, mi collego l'MB più 4 a quella radio che c'ha, capito? A quel base che ha. Così quando aggancia a lineare lo senti con quella radio. Esce un bel forte col microfono con quella radio, perché quella radio è quelle quartate, vecchio stampo. Ecco. Ehi, Massimiliano. Dove è che ha porto il Superstar 2009 con l'ecco? Adesso lo sento un wow. A Giuseppe? Sì, già. Elicottero. No, beh, il microfono io gliel'ho promesso già da tanto e glielo devo regalare. È già pronto, domenica mattina saliamo a Massimiliano e faccio le connessioni e le metto le MB più 4 perché almeno non ho problemi col microfono da tavolo, capito Vale? Tu, io non c'entro niente. Se Massimiliano glielo vuole lasciare quello Colt, sono problemi suoi, almeno io non ne ho Colt. Vale, fregatelo, dopo lo sentirai. Giuseppe, cosa dici tu? Scontro di titani sarà. Se non mi fanno incazzare l'Alghero, giro la direttiva, gliela lascio sopra, cazzo, con l'FL 2100. Poi vi voglio vedere parlando tutti e due assieme, come faceva Mario Babbo Natale e Costantino scendendo da Macomer. Nella piana di Campera non riuscivano a parlare uno con l'altro, uno dietro l'altro col TL922, Marco. Delinquente. Ha telefonato Mario Babbo Natale, vabbè rompi le balle, esci lì nel canale 5 che non intendo Costantino che ce l'ho dietro. Ehi, adesso te ne dico un'altra, io ero sotto casa lì, ma non mi ricordo, di Corrado mi pare, con un antennino, una macchina piccola, c'era Vittorio da Ottava col furgone con non so quante centinaia di watt, mi passava, io ero sotto casa di Corrado, al grattacielo e Vittorio lottava in passata. Immaginati cosa ci aveva. A parte che, vabbè, essendo troppo sulla verticale dell'antenna, aveva attenuazione sicuramente. Se capì o no? Vale, mi ascolti. Scusate, io mi sono allontanato un attimo, lasciate il pantalone con la cinghia, è bella, è nuova. Me l'ha fatta a pezzi. Tutta la cinghia del pantalone a pezzi mi ha fatto, Filippo. Sì, qualcosa, sì. Ma ci vediamo, ti mando la fotografia, me l'ha fatta tutta a pezzi. Allucinante. Valerio, ci arrivo l'alghero, sì. Giuse, guarda che domenica mattina ti porto una di queste radio così, mica, la vuoi? Questa è una razza buona. Vabbè, vai, vale. Ci accontentiamo, vai. Sono aumentato qua. Cos'è oggi, Franco? Sei salito parecchio. Ti credo. Quanto ti arriva? Oh, sì, buonanotte. Adesso è arrivato 8, prima era molto più basso, era iniziato con 1, poi 3, adesso è 8. No, Valerio, quanto ti arriva Massimiliano là? Aspetta, buono, buono. Va bene, dai. Giuseppe, anche tu arrivi così, no, mica se metti una cosa del genere, dai. Valerio, stai attento. Santiago 8 a picchi di 9. Vai, vai, aumenta, aumenta. Minimo però. Vale, dai, più o meno stiamo andando uguali. E io già lo sai cosa c'ho. Guarda, te lo mando, questo è l'ultimo arrivo di Chen. Compare già di un altro, compare già di un altro. E ciuccami la borsa delle balle. Ma adesso guardi fa di giù, Santiago 5. Come ai vecchi tempi? Non è tanto, entra giù. Lasciami con l'Antonio Bonfonio. Vale, guarda a vedere, arrivatati. Mamma mia, come sto tu, Claudia, non l'ho visto. E cosa? E ti giro la foto. Ma cosa? Ma quello che c'hai tu? Leggermente più del tuo, va, poco poco. Vedi, quello tuo che stai usando, sì. Questo è 24, però non è 12, Non l'avevo visto io, Massimiliano. No, questo... Ma guarda che... Anche quello che c'ha Giuseppe dovrebbe essere più del tuo, Perché se Giuseppe lo pilota con 4 watt, Io ho mezzo watt qua. Il 507 che c'ha Giuseppe è più forte di quello che c'ha di Valerio del Drake. Più forte sì. Ma Giuseppe lo pilota con 4 ne da 300 me. Con 4 watt da 300 watt me. Vieni domenica mattina me, che lo devo portare il wattmetro della Daiwa, si è ordinato. Che è arrivato me, Giuseppe, ce l'ho io. Il wattmetro della Daiwa, quello sì, una scala vaga incrociati, il CN801 si è ordinato, lo devo portare domenica mattina. Vieni a vedere, siamo lì, ti faccio vedere quanti watt dà con quello strumento. Abbiamo provato quello di Massimiliano, da 320 watt se parlo io, se parla di uno è da 280. No, è così, te lo dico io, è così, perché era il mio, quel 507, quindi lo so, tranquillo. Da più di 300 watt quel lineare, ed è transistorizzato lo stesso, e sesta marcia da più di 320 watt, se parlo io con la mia voce. Adesso mettendole l'amplificato sicuramente riesce a farlo salire un po' di più, Giuseppe, capito? Però il Daiwa non sbaglia, il CN801 non sbaglia perché c'è un picco di modulazione favoloso, ed è perfetto, l'ago incrociato, è molto professionale, costa 160 euro quello strumento. Capito? È un bello strumento, me l'ho ordinato anche io. Lo so, ma Claudio il lineare non ne usa. Il giorno che vi sentite a Claudio con l'amplificatore, ad Alghero vi spaventate forte, come se spaventato qualcuno. Capito mia Giuseppe? Io non mi uso amplificatore, non mi interessa usarne a me. In vecchi tempi lo usavo, adesso non mi interessa. Però volendo posso anche agganciarlo. Ce l'ho a fare una piccola modifica perché il mio è relè. E quindi sul 440 devo fare il cavetto, ma non mi interessa proprio assolutamente consumare corrente per far vedere che cosa. Mi basta solo girare l'antenna, come ho fatto a Franco, vero Fra? Alla grande. Vabbè, io sono qua, dai, ci sentiamo dopo che inizia a fare qualcosa. Vedi, Massimi, e io sto uscendo a andare a portare il cane. Quindi per il momento mi allontano dalla radio, dai. Se ci siete ci sentiamo dopo. Ok, fra, è altro che legnare da quassù, una volta che giro l'antenna sopra, quella dei 10 metri, il segnale già sale, già l'hai visto, però anche lì è un controsenso usare direttive 27 alfa cosa, alfa vede cosa. Già ci sentiamo lo stesso, non c'è problema, vero Valerio? Mi piacciono queste sfide, ti auguro di non metterti vicino a me, capito? Perché mi sto avvicinando io a te, capito Valerio? Mi sto avvicinando io a te. Tu immaginati da Ossi nella zona di Subatro, ti vedo io a te, ti vedo proprio chiaro, chiaro, chiaro, guarda. E sono ancora più vicino. Ehi, ma devo dire a me, no? E sei tu che ti devi acchiappare di non venire vicino a me, perché ce ne sono quattro di antenne ancora in questa zona, però non ci sono baracchini, le antenne solo sono rimaste. E scommetto che sono anche incenerite. E beh, quella di Daniela è un pochino incenerita, è un pochino incenerita quella con l'antenna. Quindi vale, vedi di stare più lontano possibile da me, sempre più lontano possibile, perché nel circondario dei Carbonazzi non vedi nessuno, eh. Canta, canta, non ti faccio paura, no. Fa come tanto di RVT, no? Il giorno già mi sono messo a ridere davvero, c'è un tassista, vale, che anche adesso messaggiamo in pensione, ce l'hanno conosciuto qua a Sassari, ed era in via, allora, in via Levante era, perché facevano sosta anche lì dove c'è l'hotel, non mi ricordo cosa. E mi ha detto, mi sto sei una carbonata, io andavo a prendere un caffetto, chiamami quando sei sotto, tu, che così scendo. Sto parlando col DL922, avevo circa 800-900 watt in antenna proprio, e mi sono dimenticato di staccarlo. Era sotto, ma io fara, schiaccio la portante, sto scendendo. Sto scendo, lo vedo Antonio. Mi avvicino alla macchina, c'aveva una R20 gialla allora, Station Wagon, e lo vedo abbassato. Allora si chiedi, c'è trovato il baracchino, è un fiaco di bruciato. Cazzo crepato, io, tu immaginati sotto casa mia, con quasi un kilowatt, ho schiacciato la portante e si è incendiato il baracchino, me lo ricordo, sempre me lo ricordo, ammetta di mai di comprare un baracchino, dumme. Ehi, vabbè, ti sto parlando degli anni 90, io cosa, non ti sto parlando adesso, Adesso infatti, come ti dicevo prima, non ce n'è bisogno, siamo quattro gatti, cos'è? Però se c'è da fare battaglia ancora sono in grado di farla, capito? Ma giusto così per farci due risate, ma al giorno, esce le lacrime me ne scendevano, capito? Ma tu mi avvirusi, si mi sei curato, ti e c'è il quattro baracchino che aveva un Intac FM500S, si è fulminato, ma via un fiago di bruciato, c'è il sugo. Ma Salvatore, lei ha Giuseppe qua? Non lo so, adesso glielo chiediamo. Giuseppe domanda dal tecnico qua della regia, mi chiede se c'è il saldatore buono a punta fine per saldare quel connettore, se no lo dobbiamo portare noi. Giuseppe, saldatore con punta fine e stagno, c'hai tutto tu, perfetto. Massimiliano, porta buono d'olio, non si sa mai. Porto quella batteria là, l'avevi visto saldato la batteria che ho preso? No, ma tu stai sempre comprando, però almeno mi informi di quello che compri, quindi vabbè. Vabbè, porta questo saldatore a batteria così lo vediamo, E portati anche 2 euro per pagare il caffè. Oh Massimiliano, che saldatore è? Massimiliano, ti ha detto che saldatore è? Oh raga, sono 8:20, io vi lascio e vado a portare il cane, dai. Ciao Giuseppe, Valerio, Marco, Natalino, Franco e compagni. Allora rimaniamo d'accordo così, dai. Io domani mattina chiamo a Ivan o più tardi e le dico per domani sera alle 9, ok? E anche mi sta notando che c'è gente. Saluto a tutti, ripeti, grazie. Ehi, d'accordo, ci aggiorniamo per telefono, dai. Io vi saluto che sto uscendo a portare il cane, ciao a tutti. E vi saluto anch'io che vado a cena, dai, ciao a tutti, alle prossime. Ciao a tutti, anche io, dai, io rimango in ascolto, Marco, guarda sì, il telefono. Eia. Non sarà... Questo l'ho preso anch'io, ce l'ho. Come l'ho preso, l'ho buttato in qualche armadio, eia. Sì, lo conosco, è carino molto, è carino. Oh, l'ho provato, è salda, salda. Certo, piccole cose, magari. Certo, non salderà un PL, forse, però altri componenti li saldano. Bene, allora Natalino sta andando a mangiare. Pensa, tu stai andando a cenare, io ancora non ho pranzato. Anche perché ero indisposto, dai. Vabbè, io devo anche andare in bagno, dai. Quindi, per adesso vi saluto, non so quando tornerò. Franco, riprendi tu. Ciao Natalino, ciao Massimiliano. E ciao Claudio, a dopo. Vado in bagno io. Dai, riprendete voi. Ciao, ci sentiamo dopo a tutti. Marco, anche io mi sto lontano perché è arrivata gente, scusa. Ciao Fra. Ciao anche Valerio e Giuseppe, io sto andando in bagno un attimino. Ci sentiamo più tardi, ok? Appena rientra Claudio. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Se volete vi faccio la foto del prodotto, ve lo mando. La Nutella mi sul pane. Beh, Marcolino Condo. Vale, farà bravo. Vabbè, Marco Condor, finito hai di giocare o di pappare? Ah, finito hai? Ma io già lo so che sia l'ascolto, dai, che si fa attendere.